Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Poi con il sole arrivavano la Serafina o l'Emilia a portare il vinello, o facevo io una scappata a casa e mangiavamo colazione. Il massaro diceva i lavori della giornata, di sopra cominciavano a muoversi, sullo stradone passava gente, alle 8 si sentiva il fischio del primo treno. La giornata la passavo a fare erba, a voltare fieni, a tirar l'acqua, a preparare il verderame e a bagnare l'orto. Quando correva la giornata dei braccianti, mi mandava a tenerli d'occhio, che zappassero, che dessero bene lo zolfo e il verderame sotto la foglia, che non si fermassero a discorrere in fondo alla vigna. E i braccianti dicevano a me che ero uno come loro, che rilasciassi fumare in pace la cicca. «Sta attento come si fa», mi diceva Cirino, sputandosi sulle mani e levando la zappa. «Un altro anno attacchi a lavorare anche tu». Cesare Pavese, tra il settembre e l'ottobre del 49, scrive di getto il romanzo «La luna e i falò». È uno dei suoi romanzi più autobiografici e lo compone poco tempo prima di suicidarsi. Dentro questo libro è contenuta la nostalgia, i luoghi della sua infanzia e dell'adolescenza, la memoria, la solitudine, lo sradicamento, la malinconia, la resistenza e soprattutto la civiltà contadina con i propri rassicuranti riti. Pavese narra della campagna piemontese prima della guerra, della dura vita nei campi che però crea una solidarietà di gruppo forte quanto dei legami familiari. Ricorda le sere, dopo le estenuanti giornate di lavoro, che si passano insieme a parlare, ad ascoltare i respiri della natura e dei cicli della vita. Le sere d'estate, quando stavamo seduti sotto il pino o sul trave nel cortile a vegliare, passanti si soffermavano al cancello, donne ridevano, qualcuno usciva dalla stalla. Il discorso finiva sempre che i vecchi, Massaro Lanzone, Serafina e qualche volta se scendeva il Sor Matteo, dicevano «Sì, sì, giovanotti, sì, sì, ragazze, pensate a crescere». Così dicevano i nostri nonni, si vedrà quando toccherà a voi. «Pensate a crescere», diceva il Sor Matteo. E loro ci pensano sempre. Ma per quanto le stagioni e la loro futura condizione di contadini sembrino immutabili, i giovani si abbandonano ai sogni imposti dalla tenera età. Spesso l'idea di affrancarsi da quella vita nei campi passa dentro i loro corpi e il corpo stesso diventa uno strumento. È l'epoca in cui incomincia l'epopea del ciclismo. Due gambe solide e due buoni polmoni possono bastare a immaginarsi un futuro diverso. La bicicletta serve a vivere. Ti porta da casa fino al campo e la sera viceversa. I paesini, le campagne, tutto diventa più vicino, facendo girare le gambe sui pedali. Su un vecchio manuale di ciclismo del 1910 sta scritto: «La verità grande, aurea, incontrastabile, è che il ciclismo al nostro tempo può dirsi semplicemente una necessità sociale. La bicicletta ha avuto l'amore di tutti, solo perché è cosa di tutti». La bici è cosa di tutti. Tutti la usano per muoversi, ma per qualcuno è qualcosa di più. Se scopri che le tue gambe riescono a farla andare veloce, più veloce degli altri, se la terra sotto le tue ruote si confonde diventando una scia uniforme e l'aria intorno a te mentre pedali diventa vento contrario, allora forse la bici diventerà il tuo futuro. Nel Piemonte dei primi decenni del secolo, il Piemonte di Pavese, c'è una zona di frontiera che Gianni Brera ricorda in questo modo. Su quella terra avara e disagevole si sono scavezzate intere generazioni per non cavarne molto più del pane. Tutto quanto essi hanno avuto dalla vita debbono conquistarselo soffrendo. È la zona di Novi Ligure, immersa tra le brume del Basso Piemonte e dell'Alta Liguria. In queste terre sono nati molti di quelli che hanno fatto la storia del ciclismo. Forse è stata la terra di frontiera a ispirare le loro gambe. Forse quegli Appennini dietro cui si nasconde Genova, il mare e parte del mondo erano un invito alle scalate. E poi il cuore di quelle parti, forgiato alle fatiche. Brera, raccontando di uno dei nostri due protagonisti di oggi, dice che era evidente in lui il marchio di quella gente che viveva combattendo e di quella gente ne aveva le impronte gloriose di sacrifici e stenti. Sono uomini dei campi che presto nella vita imparano l'arte del sacrificio, come racconta Bertolucci in Novecento. «Olmo, adesso che sei grande e ti spocchi il coglier, vieni avanti. Ricordati questo. imparerai a leggere e a scrivere, ma resterai sempre Dalgo Olmo, figlio di paesani. Morto di fame. Andrai a fare il soldato. Vedrai il mondo. E dovrai anche imparare a ubbidire. E pigliare calci nel culo. Prenderai moglie, eh? E faticherai per tirare su i figli. Imparerai a portare pazienza. Ma cosa resterai sempre? Dalgo Olmo. Dalgo Olmo. Paesano. Domenico Coppi ha una piccola vigna e vende il vino. Con la sua famiglia vive a Castellania, un borgo di 20 case che si inerpica su una collina alle spalle di Novi. Il pomeriggio del 15 settembre del 1919 gli nasce il terzo figlio. È tempo di vendemmia e viene avvisato mentre lavora nei campi. Corre a casa e si trova di fronte uno scricciolo che pesa appena 2 kg. Lo chiamerà Fausto, come lo zio. Fausto Coppi. Fausto Coppi. Ma per tutti, da subito, è Faustino. Faustino Coppi è un bambino gracile, ha le gambe lunghe, la testa piccola e il naso ad unco, per cui i compagni di scuola lo sfottono chiamandolo Pinocchietto. Ha già le sembianze di quell'airone di cui narrerà anni dopo Orio Vergani in uno dei più belli epitaffi dedicati a un uomo di sport. Il grande airone ha chiuso le ali. Quante volte Fausto Coppi evocò in noi l'immagine di un grande airone lanciato in volo con il battere delle lunghe ali a sfiorare valli e monti, spiagge e nevai. Fortissimo e fragile al tempo stesso, qualche volta la stanchezza e la sfortuna lo abbattevano e lo facevano crollare a terra, sul ciglio di una strada o sull'erba del prato di un velodromo. La sua figura sembrava spezzarsi in una strana geometria, come quella di un pantografo, e una volta di più suscitava l'immagine di un airone ferito. I genitori di Fausto sono preoccupati. Il corpo del loro bambino non sembra fatto per la vita dei campi, che è nel destino della famiglia e dei suoi fratelli. Domenico ha paura che quel fisico gracile non si limiterà a piegarsi alla natura, ma si spezzerà. Così riesce a sistemarlo presso una salumeria di un amico di famiglia che sta a Novi Ligure. Faustino comincia a fare il garzone. Con i suoi soldi fatti da qualche risparmio e da quelle 10 lire che lo zio Fausto gli ha messo sotto il cuscino il giorno in cui è nato, si compra una bicicletta. Porta i salami, porta i fiaschi di vino avanti e indietro da Novi verso paesini che hanno nomi a lui consueti come Carezzano, Pozzolo Formigaro. E non immagina che quei paesaggi, negli anni a venire, si trasformeranno in montagne, in lungomari, in città antiche e moderne. E che quelle sue solitarie pedalate, tra qualche tempo, saranno accompagnate sempre più spesso da ali di folla che lo inciteranno ad andare più forte. Un giorno, quasi a Natale, Faustino si ritrova a dover fare 1000 consegne. Perde però il foglietto con gli indirizzi dei clienti e così è costretto, con la bici carica, a dover rifare la salita che porta al negozio. È qui che la prima volta nella sua vita incontra l'uomo che gli cambierà l'esistenza. Biagio Cavanna. Biagio Cavanna. In quella mattinata piena di freddo, i due si incrociano soltanto. Uno sguardo, due parole. Il preludio ancora sconosciuto di un rapporto che cambierà la vita di entrambi. Somebody hunted him, he'd make his wheels spin wildly, shoot out the lights or an innocent man. And the bankers and the cops were now running scared. Sante and the bandit was too tough. Sante was gaining way too much confidence, and the rewards for bravery are never enough. Ay, ay, ay, Chiarango, fly you great champion. No one can catch you on your roll. Ay, ay, ay, Girardengo, watch out for Sante, he's not that far behind anymore. Costante Girardengo. Per gli uomini, e ancor più per i ragazzini di Novi Ligure, è semplicemente un idolo. Vince 2 volte il Giro d'Italia, 6 volte la Milano-Sanremo e 3 volte il Giro di Lombardia. Detiene ancora oggi il record di vittorie nel campionato italiano su strada con 9 successi. è chiamato il campionissimo, soprannome che poi toccherà anche a Coppi. Ma non saranno solo l'etichetta appiccicata dai cronisti dell'epoca e la provenienza geografica i punti in comune con Fausto. Ettore, il figlio di Costante, racconta così la giovinezza del padre. Mio papà aiutò i genitori nella tabaccheria di famiglia, servì come sguattero nella cucina di una conceria, poi andò come commesso dall'armaiolo Cavanna, in via Roma. La tappa successiva fu a 16 anni, nelle officine Alfa a Tortona. Per raggiungerle macinava in bicicletta 38 km al giorno. Costante e Fausto, adolescenti, non vanno in bicicletta per passatempo. La bici è una necessità, fa parte del loro lavoro e della loro fatica. È il mezzo per andare in fabbrica, per fare le consegne. Quando anni dopo si troveranno a gareggiare sulle strade d'Italia e di mezza Europa, nei loro polmoni, nelle loro gambe, sentiranno la fatica più leggera ora che adulti pedalano per sport. E la bicicletta non sarà mai per loro il semplice attrezzo, ma piuttosto un animale fedele che, condotto con mestiere, li porterà alla meta. Perché così dall'infanzia hanno imparato a trattarla. Ciò che accomuna maggiormente Fausto Coppi e Costante Girardengo è senza dubbio un uomo, quello che per entrambi è stato il maestro, Biagio Cavanna. Cavanna, classe 1893, è coetaneo di Girardengo. È un omone che si è sempre dedicato allo sport, ha fatto nuoto, pugilato e alla fine è approdato al ciclismo. Non è un talentuoso, ma non teme la fatica e dice sempre che sono i desideri a creare l'energia. Nasce povero e si arrangia tra una disciplina e l'altra. Tutti a Novi lo conoscono, è una di quelle persone che quando entra in un bar o in un circolo si zittiscono tutti per ascoltarlo. È uno di quelli che non importa tanto quello che dicono, perché gli basta il modo di dirlo per farsi dar retta. La sua personalità e anche la sua amicizia con Girardengo lo portano a diventare uno dei talent scout di ciclisti più importanti della zona. Intanto in bici continua a correre, sempre con la fatica addosso, sempre a inseguire le ruote di chi ciclista è nato coi geni giusti. Durante una 6 giorni a Düsseldorf nel 36, comincia però a sentire addosso, sugli occhi, i sintomi della malattia che gli cambierà la vita. Di lì a pochi mesi diventerà cieco. Ognuno combatte come può e come sa i drammi della vita. Biagio, del suo, ne fa una spinta in direzione di un'esistenza che lo rende mitologico. La cecità acuisce gli altri suoi sensi. Per tutti diventa in poco tempo il mago di Novi o l'orbo veggente. Talent scout e massaggiatore, gli basta sentire i muscoli, il corpo di un corridore tra le sue mani per dire se sarà un brocco o diventerà un campione. È un gigante e quando ti posa le mani sulle gambe è come se stia impastando uova e farina. Mentre tasta il tuo corpo, spiega. Il collo deve essere grosso per sopportare la fatica. Il collo da gazzosa non vale niente. I reni sono tutto per un corridore. È qui la sede dello scatto, è qui il magazzino dell'energia. Le braccia devono essere muscolose, perché questo è il segno di chi nella vita ha faticato. Collo, reni e braccia sono le basi. Poi si può imparare ad andare in bicicletta. Saper andare in bicicletta significa fare meno fatica possibile. Fare meno fatica possibile. Per Biagio vuol dire non farsi scoppiare il cuore, non morire. È quella la soglia che chiede di raggiungere ai suoi ragazzi. A lui piacciono i contadini, i muratori, gente che sa cos'è il sudore del lavoro. Gianni Brera di quell'omone ne ha fatto un piccolo ritratto straordinario. Sul giro di Gavi fanno le gambe gli allievi di Cavanna, il cieco. Lo si vedeva per Novi, faccia sgherra, tra il gangster e il capitano di Ventura. Ha seguito Girardengo e poi Guerra. Dice che fu con Pollastri, la mazzaguardie. Del ciclismo sa tutto, anche i delitti. Fa scuola a casa come un antico maestro d'armi. Chi vuol correre gli si presenta e lui con le dita capisce se è matto o se ha ragione. Riceve accanto al fuoco, con un bastone sul quale medita, e dietro gli occhiali neri si indovina il battere disperato delle palpebre sulle pupille spette. Io da quassù, dalla finestra, aspetto e arriva col sole già. Raccoglie i fiori, lo fa per me, corre nel prato ed io quassù. Se mai amore conoscerò, solo ed io ruggine. Spesso i suoi ragazzi sono dei poveracci, dei ladruncoli che vogliono sperare in qualcosa di meglio. Biagio se li prende in casa. Un piatto di minestra per loro c'è sempre, anche una brandina per dormire se non sanno dove andare. Biagio non inganna nessuno, non ti dice mai che hai talento se non lo sente tastandoti con le sue mani. Ma anche a quelli più scarsi una mano la dà sempre e fa capire a tutti che con il cuore si può mettere una pezza ai muscoli, se questi non valgono molto. Come raccontano Parodi e Giacchero, due dei tanti ciclisti passati dal mago di Novi. Per noi Cavanna era un dio. Eravamo disposti a tutto per lui. Mangiava un tavolaccio su una poltrona che pareva un trono. Ai miei tempi era già cieco. Ricordo che me ne stavo contro il muro e lui mangiava. Era un gran mangiatore. Io stavo attento che non si sporcasse la barba. Gli eravamo devoti. Lui non era un uomo, era di più. Lui diceva che la cosa più importante nella vita è il desiderio, perché il desiderio crea energia. Si viveva in un camerone. Ci si allenava tutti i giorni e gli allenamenti erano più duri delle corse, da sputare l'anima. Il mattino 120 chilometri svelti, poi si mangiava, si dormiva e il pomeriggio si facevano 60 chilometri a cronometro. Una sera ero così stanco che a Cavanna domandai: «Vi è più cara la mia pelle da vivo o da morto?» L'orbo veggente, con il suo carisma, tiene tutti sotto la sua ala e la sua bacchetta. Striglia i suoi ragazzi per renderli atleti e uomini migliori, e loro lo accudiscono e lo venerano come un padre. Parodi, ricordando il suo rapporto col mago, gli dice che gli viene in mente il film di Risi, Profumo di donna. Se vuole aiuto. Ma non essere ridicolo, vai, cosa vuoi aiutare? Non ho bisogno d'aiuto io. Vai, vai in branda. E non squagliarti, eh? Se mi accorgo che esci, ti sistemo, guarda, per il resto del tuo servizio militare. Bene, signore. Sveglia alle 8. Va bene, buonanotte, signore. E non ti masturbare. Prego. Non farti le pippe! Sono passati 4 o 5 anni da quel primo incontro tra Cavanna e il garzone Fausto Coppi. Fausto nel frattempo ha preso a pedalare, e a pedalare forte. Più volte avrebbe voluto andare dall'orbo veggente per farsi mettere alla prova. Ma Faustino è un timido, è uno schivo. Però il destino, sotto forma della cecità di Biagio, vuole che i due si incontrino di nuovo, e questa volta per dar seguito al futuro di Coppi. Cavanna, non andando a far la spesa, ci manda il corridore Isidoro Bargaglio. Lui va sempre nel negozio dove lavora Fausto e i due diventano amici. Fausto chiede a Isidoro se ogni tanto può andare ad allenarsi con lui. Bastano due o tre pedalate sulle colline dietro Novi perché Bargaglio capisca. Isidoro porta Fausto da Cavanna. I collaboratori di Biagio osservano quel ragazzo lungo e magro ma con il torace capiente, mentre mostra come va in bici. Dicono che è forte, che va come un treno. Poi Cavanna se lo fa portare a casa. Fausto è nervoso, il suo sguardo fugge ovunque. Biagio lo tasta e così comincia la loro storia insieme. Un omino con le ruote contro tutto il mondo, un omino con le ruote contro l'Isoard e va su ancora e va su. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati stiamo raccontando la storia di Fausto Coppi e Biagio Cavanna. Fausto, un campione straordinario della bicicletta, e Biagio, il suo mentore, l'ombra protettiva che sta dietro alle sue spalle. Insieme scrivono una delle pagine più belle e memorabili della storia del ciclismo. Quando Cavanna prende Coppi sotto la sua ala protettrice, Fausto ha meno di 20 anni. Ne sa poco delle corse e delle sue malizie da battaglia. Non conosce gli allenamenti da professionista, l'alimentazione giusta e non sa quanto cervello e quanto cuore bisogna mettere nei diversi momenti della gara. Biagio gli insegna tutto. Fausto ha una personalità complessa che nasconde dietro una timidezza atavica e una finta semplicità. Ma Biagio non si intende solo di muscoli e di tattiche di corsa. È anche a suo modo uno psicologo. Sa per ognuno dei suoi ciclisti quali sono i tasti giusti da toccare. Come un esperto cavallerizzo, sente i bisogni muti di tutti i suoi ragazzi. Sa quando stringere il morso e quando lasciare andare le briglie. A Fausto, giorno dopo giorno, gli inietta il coraggio e la consapevolezza della sua forza. A Coppi piaceva sedersi a fianco a del maestro, sentirlo raccontare le vecchie storie di Girardengo e del suo amico ardito e delinquente Sante Pollastri. Fausto ascolta e impara. Si fida delle indicazioni di Biagio e quando questi gli indica i bisogni e le soluzioni per mettere in forma il corpo, lui obbedisce come fa un apprendista devoto di fronte a un magico alchimista. Tante ne conosce e ne dice, l'orbo veggente. I primi tempi in cui Filippi era a Novi mi chiese: quando avremo una giornata di riposo? E io risposi: i corridori riposano la notte, a letto. Di giorno devono essere sempre in bicicletta. Non è forse così anche per l'operaio? Se vuoi imparare il mestiere di corridore, non devi mai chiedere nulla. Fa ciò che ti dico e sappi che altri, prima di te, hanno fatto altrettanto. Il divertimento, di qualsiasi genere, è il peggior nemico del corridore. Questo spiega perché le città non forniscono al nostro vivaio elementi di fama. A voler fare un censimento, ci si accorgerebbe di come i corridori più noti siano diventati cittadini dopo aver raggiunto una posizione di privilegio. Nel 1939 Coppi partecipa a una corsa a Pavia. In quell'occasione Cavanna scrive a Giovanni Rossignoli della Bianchi raccomandandogli due nomi. Fausto è ancora un dilettante. Solo da lì a pochi mesi diventerà professionista. Caro Giovanni, ti mando due corridori. Uno, il Coppi, vincerà. L'altro farà quel che potrà. Quello stesso anno il Giro d'Italia passa dalle parti di Novi. Da quelle parti fatte di campi, fatica e ciclismo, è come se fosse la festa del santo patrono del paese. Coppi, sul ciglio della strada con il fratello Serse, attende la carovana che attraversa sui pedali l'Italia. Chissà quando sarà la sua occasione, per ora è solo uno spettatore. Da lontano cominciano a sentirsi i rombi delle motociclette e delle ammiraglie. È un suono sordo come quello di un temporale in arrivo. La gente che fino a quel momento chiacchiera a gruppetti si mette in fila, ordinata, come ad attendere una processione. I colli si allungano, passano le moto e poi una cinquantina di metri più indietro si comincia a vedere un uomo in equilibrio sui sottili tubolari di una bici. Parte un grido. Gino! Tutti si sbracciano, anche Fausto si sbraccia e saluta una folgore che passa. È Gino Bartali. Tutti esultano al passaggio di quel campione straordinario. Fausto guarda e si lascia andare a un sorriso incantato, cosa rara per lui. Coppi osserva, ma con un occhio diverso da quello che avrebbe avuto fino a un paio di anni prima. Biagio gli ha detto che lui, Bartali, può batterlo. E Coppi, a furia di sentirselo ripetere, ha cominciato a vedere le cose in un'ottica diversa. Cavanna non dice mai le cose a caso e finora su di lui ha sempre avuto ragione. Gli altri corridori sfilano con un minuto di svantaggio su Bartali. La gente li chiama, applaude, Fausto li vede passare, ma non partecipa. La sua testa è già altrove. Sta pensando al futuro. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai: dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Il futuro a cui pensava Fausto vedendo pedalare Bartali è dietro l'angolo. Cavanna lo fa allenare al suo massimo, lo manda alle corse giuste. E nel 1940 è già al Giro d'Italia, a 20 anni. La squadra di Bartali lo vuole e lo prende come gregario. Biagio va con lui perché senza Fausto non si muove. Coppi è un po' preoccupato perché non ha mai fatto una corsa a tappe. Biagio gli fa capire che può farcela, che uno bravo come lui più tappe ci sono meglio è. Avrà tante possibilità per far valere la sua stoffa. Il giro comincia. Per Bartali sono quasi da subito guai. Cade durante le prime tappe e il suo distacco dai primi dopo neanche una settimana si fa pesante. La carovana del Giro intanto arriva a Firenze. Visto che Bartali non ha la possibilità di vincere la corsa a tappe, ai gregari viene dato il via libera. La squadra vorrebbe cercare di vincere qualche tappa, per cui le iniziative dei singoli saranno viste di buon occhio. La sera prima della corsa, Biagio Cavanna sta massaggiando Fausto. Dietro quei suoi occhiali scuri, l'orbo veggente sente nella testa quello che gli trasmettono le sue mani. Massaggiando Coppi mi accorgo immediatamente delle sue possibilità in quel momento. Se è il Fausto in grado di conquistare la vittoria clamorosa, massaggiando le sue gambe mi pare di suonare una chitarra. Tale è la scioltezza dei muscoli asciuttissimi. Altrimenti, se è il Fausto a cui occorre ancora nuovo lavoro per raggiungere la forma, sento di avere tra le mani qualcosa tra corda e corda, sempre per riferirmi alla chitarra. Quella sera, nell'albergo di Firenze, Biagio sente che Fausto è pronto per qualcosa di importante. Lo incita che non è venuto qui al giro per fare una vacanza. Nelle sue gambe c'è la possibilità dell'impresa. Glielo assicura lui. Ora servono anche la testa, il cuore e il desiderio. Se cavalca le sue gambe con la personalità del condottiero, Fausto ha di fronte una giornata campale. È il giorno della tappa Firenze-Modena. Sul capoluogo toscano scende una fitta pioggia. La pioggia sulla Betone diventerà un diluvio. È su questa montagna che cambia la storia del ciclismo. Malgrado il tempo, tante famiglie sono accampate per assistere allo spettacolo del giro. Si mangia, si beve, si aspetta in compagnia. Finché il passaparola, che va più veloce delle biciclette, annuncia che qualcuno sta arrivando. La gente si aspetta di vedere Bartali o qualche altro grosso nome sbucare da dietro la curva. Primi alla Betone non si passa se non si ha l'andatura del campione. Ecco che arriva. Una bici sale per la dura pendenza. Pare che scivoli e che scorra come se fosse su una lieve discesa. Appeso sul manubrio c'è un ragazzo di 20 anni, alto, con il naso da uccello. Non sembra mica che faccia tanta fatica. La faccia è distesa, ma concentrata. Passa tra gli applausi e poi scompare veloce per la sua strada. Gli spettatori, tra cui gli abituè e gli esperti del giro, si guardano. Ma chi è quello? Nessuno lo conosce. È già sparito dietro quella curva là in alto. Ora gli occhi di tutti si volgono verso valle. Si aspettano di vedere comparire subito qualcuno, magari il gruppone. Se il ragazzino è passato per primo, vuol dire che il ritmo è basso. Ma dal basso non arriva nessuno. Ci vorranno dei buoni minuti prima che qualcuno con le sue ruote a fatica raggiunga questo tratto di strada dove l'airone Fausto Coppi ha appena volato. Fausto Coppi sale così alla ribalta della grande avventura. Il gregario di Bartali, l'uomo che non è nato per fare il portaacqua, tallona il suo capitano, ne scopre i momenti di crisi ed esplode nella vittoria del suo primo Giro d'Italia. È la pagina d'apertura di un mito. Ma dopo l'impresa della Betone, Coppi conquista la maglia rosa e la difende fino a Milano. Diventa a soli 20 anni il più giovane corridore ad aver mai vinto un Giro d'Italia. È nata una nuova stella del ciclismo. Cavanna, dopo i mitici Guerra e Girardengo, ha forgiato un altro campione. Sembra l'inizio di un binomio indistruttibile, l'esperienza di Biagio, il talento di Fausto. Ma in Italia e nel mondo sono momenti difficili. Qualsiasi sogno e qualsiasi vita non possono sfuggire al mostro della guerra che inghiotte tutto. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati va in onda il racconto del legame che si creò tra Fausto Coppi, il grande airone, e Biagio Cavanna, l'orbo veggente. Fausto corre in bici e Biagio ne prepara i muscoli e la testa. La carriera di Coppi esplode nel 1940 con la vittoria al Giro, quando ormai sull'Europa e sul mondo imperversano i venti della guerra. 1942, Milano. Fausto Coppi e Biagio Cavanna sono in città per provare a battere il record dell'ora su pista. Che siano le lunghe strade delle corse a tappe o i circuiti obliqui dei palazzetti, per Coppi non fa differenza. È un corridore universale. La sua unica specializzazione è la vittoria. La prova contro il tempo sta però per saltare. I bombardieri inglesi a momenti alterni sorvolano e sganciano le loro bombe su Milano da ormai 2 anni. Gli attacchi su Milano sono sostanzialmente solo notturni. Gli aerei inglesi decollano da basi posizionate nel sud dell'Inghilterra verso l'ora di cena. Attraversano nella serata i cieli della Francia occupata dall'esercito di Hitler. Varcano le Alpi e a mezzanotte piombano sulla città, dove restano per circa un'ora per poi far ritorno alle loro basi. Ma gli assembramenti di pubblico, anche se diurni, sono comunque sconsigliati. Riunire 15.000 persone nello stesso posto a seguire una gara di bici è un rischio che non si può correre. Biagio Cavanna e gli organizzatori parlano fitto e arrivano a una soluzione. Fausto, al velodromo Vigorelli, stabilisce il nuovo record dell'ora, ma l'impresa è compiuta in un clima surreale. Per evitare che la gente si riunisse a vedere il giovane campione, è stato comunicato un orario falso per l'inizio della corsa. Tra gli spalti vuoti e un silenzio irreale, Coppi taglia il traguardo vittorioso nella sua gara contro il tempo. I territori e le genti che appartenevano all'impero di Etiopia sono posti sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia. Fausto Coppi va in guerra, in Africa, nel momento in cui è sbocciato da giovane talento a Campione, è costretto a fermare le sue gambe e a imbracciare il fucile. Prima nelle retrovie e poi inesorabilmente sempre più avanti fino alle linee nemiche. Magari fosse ancora in quel mondo normale dove Biagio gli preparava i muscoli e gli consigliava di attaccare la salita. Qui in Africa esistono solo ordini e c'è chi decide per lui. Quando gli dicono di avanzare, lui avanza. Fante della divisione Ravenna, con i suoi compagni d'armi, viene fatto prigioniero degli inglesi. Solo nel 1945 tornerà uomo libero in Italia. Quando Fausto torna dalla guerra, è pieno di dubbi. Il periodo passato in Africa l'ha provato, psicologicamente e fisicamente. Si domanda se e in quanto tempo riuscirà a trovare la forma perfetta. Per uno sportivo professionista, mettere per 2 anni il fisico in naftalina può essere un serio problema. Hai paura che quando lo riprendi in mano il corpo non sia più quello, che si sia arrugginito. Ma l'occasione per testarlo arriva subito, con la classica italiana per eccellenza, la Milano-Sanremo. Il giorno della gara Coppi è preoccupato, ma Cavanna è lì con lui. Ha atteso il suo ritorno dal fronte come quello di un figlio. Biagio è cieco, ma non c'è bisogno di vedere per sentire che cosa passa per la testa di Fausto, che se ne sta lì in silenzio, pensoso, sul furgoncino della Bianchi. Sono 6:30 del mattino. Cavanna, anni prima, aveva buttato dentro il coraggio e la fiducia nel motore di Coppi. C'è solo da mettersi lì un attimo a cercare, a rimestare nel cuore del suo allievo. Filippo Timo, nel suo libro Viva Coppi, ricostruisce in questo modo quella mattina prima della partenza. «Cava e braghe», gli disse Biagio. Fausto obbedì subito, si accomodò sulla panchetta e tolse i pantaloni. Biagio iniziò a palpare e massaggiare. «Stamattina sei un drago. Non c'è bisogno di dirti niente», fu il responso. Fausto allora ribatté. «Sì, le gambe ci sono, ma ho un po' paura riguardo al ritmo. Con tutti i traguardi volanti che ci sono quest'anno, le fughe partiranno subito. Ho paura di stancarmi». Biagio sbuffò. «Non devi avere paura di niente. Per quel che mi riguarda, puoi anche fare tutta la corsa da solo e vincere». Mentre il cieco pronunciava queste parole, salì sul furgoncino il Tragella, che subito si intromise. «Non diciamo stupidaggini, Cavanna. Fausto deve dosarsi. Tutti si aspettano il duello con Bartali e lui deve fare la corsa con Bartali. Delle fughe del primo tratto non ci importa nulla, tanto non arrivano mai fino a Sanremo». Cavanna ebbe un fremito, come di risentimento, ma si trattenne e rispose soltanto un «Vabbè, lo sa lui cosa deve fare». Poi s'accostò all'orecchio di Coppi e sussurrò «Oggi è un giorno speciale, Faustino. Fai qualcosa di sensazionale ed entrerai nella storia, ricordatelo, nella storia». Fausto arriva a Sanremo che dietro alle sue spalle non si vede nessuno. Esulta e dopo il traguardo scende dalla bici. Riprende fiato e ha persino il tempo di cambiarsi. Sulla linea del traguardo non è ancora passato il secondo. Entra al ristorante lì accanto, beve, usa il bagno, concede 2 interviste e niente. Non arriva nessun altro corridore. Intanto, dalla radio che segue la cronaca della corsa, esce la voce del commentatore. Primo classificato Coppi Fausto. In attesa del secondo classificato trasmettiamo musica da ballo. Alla 3ª intervista rilasciata da Coppi, finalmente si vede sbucare il secondo. Il suo ritardo ammonta a 14 minuti. Coppi è tornato dalla guerra più forte di Coppi. Quella Milano-Sanremo sancisce la ripresa di una carriera che diviene mitologica, come il suo duello infinito con Bartali. Vince tutto, Faustino. Il giro, il tour, le grandi classiche. Per altri 10 anni, da quel giorno a Sanremo, rimane il più forte. E Cavanna è dentro, è a fianco a lui. Gli ha insegnato tutto quello che si può insegnare, e anche di più. L'orbo veggente gli ha inculcato lo spirito del campione. La cultura del sacrificio e del gruppo sono la base su cui costruire le pedalate. E Coppi lo ha imparato così bene che i suoi gregari lo idolatrano come i ragazzi del Covo di Novi idolatravano Cavanna. Quegli uomini che vivono ogni giorno la fatica della bici hanno la stessa venerazione per l'uno e per l'altro. Biagio e Fausto, diversissimi, Ma a sentir parlare di loro dai gregari, ogni tanto sembra che stiano raccontando della stessa persona. Il passista Parodi ricorda così di Cavanna. A una Coppa Italia ci ritrovammo in quattro che insieme non valevamo una cicca. Eravamo spompati, cadaverici. Io, ma anche Carrea, Milano e Giacchero. Cavanna era 100 metri avanti con l'auto. Lo raggiunsi per dirgli che eravamo cotti. Non mi fece aprir bocca. Mi disse: «Allè, allè, questo è il momento di scattare!» Beh, arrivammo primo, secondo, terzo e quarto. Biagio non era un santone. Era semplicemente uno che riusciva a metterti nella testa il desiderio. Ci stava addosso, cattivo, e ci rincuorava come un padre. Avremmo dato la vita per lui. E Giacchero ricorda Coppi così. Coppi era un uomo così. Buono, generoso, serio e rigoroso. Insieme si scherzava sempre. In corsa, però, non si scherzava mai. A Fausto, io e gli altri abbiamo sempre cercato di dare tutto quello che avevamo in corpo, ma ne valeva la pena. Che quando Coppi scattava in salita, veniva quasi la voglia di fermarsi ad ammirarlo, con quel corpo proteso in avanti, il peso sui pedali, in altalena, sulla bicicletta, e se non avesse avuto i piedi attaccati ai pedali, chissà, forse sarebbe davvero volato via. Lui ci voleva un bene dell'anima. Certe volte sembrava svagato, come se pensasse a qualcos'altro. Anche quando eravamo tutti nella stessa stanza, a raccontarci la vita, a leggere il giornale, a ridere, scherzare, era fatto così. E per noi era fin troppo. Per questo non finiremo mai di ringraziarlo. Per Fausto Coppi e Biagio Cavanna, il ciclismo non è mai stato soltanto uno sport. È un modo di vivere, con le sue regole, le gioie e le responsabilità. E se sei un corridore, vai avanti con umiltà e a testa alta finché il fisico ti regge. Alcuni hanno criticato gli ultimi anni da professionista di Coppi. È finito, non ce la fa più a tenere i suoi standard di campione. Ma se ami davvero qualcosa, vai avanti, non ne puoi fare a meno. Fausto non si ritira quando sente che l'apice della carriera è ormai alle sue spalle. Per lui il ciclismo non è un lavoro in cui andare in pensione, è la vita che continui a percorrere finché non si spengono gli ultimi grammi di energia. 5 anni prima di morire, Coppi è a Trento. E prima della penultima tappa del Giro che avrebbe vinto il giovane Nencini, si racconta così al giornalista Nino Oppio. È stata dura stare alla ruota quando ero abituato a staccarli tutti di forza. Alle Dolomiti, che erano state le grandi amiche delle mie vittorie più belle, ho chiesto il responso decisivo. Dovevo stabilire se ero ancora un campione o appena un corridore. Le Dolomiti, con la loro voce sincera, una voce che viene dal cielo, hanno risposto che non sono più un campione. Adesso continuerò a fare il corridore. Si può anche fare il corridore. Certo, per chi è stato campionissimo è triste fare solo il corridore, ma bisogna adattarsi. Coppi va avanti a correre finché non si ammala di malaria in Africa. Quando torna in Italia, poco tempo dopo, muore. Cavanna è sempre stato al suo fianco e dopo 2 anni muore anche lui. Insieme hanno scritto una delle più belle pagine di vita sportiva del nostro paese. Nelle campagne intorno a Novi e sulle colline che stanno lì sopra, trovi ancora in qualche bar i reduci di quel tempo. Parlano dell'airone, dell'orbo veggente e di certo neanche per un secondo ti danno l'impressione di parlare soltanto di ciclismo. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and Jaws was never my scene and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is duties, oh yeah. Run, follow, girl.